Capitolo 40. Anversa. 28 maggio 1538. Non aspettai la fine. Lasciai Münster agli inizi di settembre. Non vi rimisi mai più piede. Eloy mi accende un sigaro con la brace del camino. Le volute si sollevano ampie, mentre assaporo il gusto della grande pace che scende lenta nelle membra. Non mi aspettavo di ritrovare qui questo piacevole prodotto delle Indie. Le rondini volano basse sopra i tetti screziati dal tramonto, segno che pioverà. Il cigolio regolare di un carro che passa in strada. Voci, un latrare lontano. Ho passato in rassegna nomi, volti, sensazioni, annidate nei solchi delle cicatrici. Qualcosa è scomparso, dimenticato per sempre in fondo al pozzo oscuro. La memoria, sacca piena di cianfrusaglie che rotolano fuori per caso e finiscono col meravigliarti, come se non fossi stato tu a raccoglierle, a trasformarle in oggetti preziosi. Sorrido al tempo, alle imprese tragiche, agli eroi casuali di altre stagioni. Sorrido. Eloy sa concedere il tempo necessario. Non è facile incontrare un uomo che sappia ascoltare una storia raccontata davanti al fuoco. Rompe il silenzio fumoso che ci avvolge. E poi? Sprofondai. Senza riuscire a pensare, senza chiedermi più niente. E come me e tanti, fuoriusciti in tempo dalla città dei folli, sbandati, stanchi. Ci portavamo dentro il rancore della più grande occasione bruciata, una cancrena lenta che ci rodeva la mente. Non avevamo più un posto nel mondo. Nei Paesi Bassi c'era subbuglio, sembrava che tutto dovesse esplodere da un momento all'altro. Per questo ci ritrovammo tutti lì, senza alcuna direttiva, a rimettere insieme i nostri pezzi. In Olanda la discussione tra i fratelli ferveva più che mai, da una parte i sostenitori della Via Pacifica, con Philips e Joris, dall'altra i più determinati, gli irriducibili, che avrebbero voluto impugnare le armi. Li raccattavamo per strada, giovani, pronti a tutto. Eloy mi interrompe con un colpo di tosse. Ti stai dimenticando di noi? Joris mi odiava, mi odia ancora. Aspetta, aspetta, come mi ha definito? Un libertino dedito alla copula e alla gozzoviglia. Non avrei saputo dire di meglio. Sorride. Ormai posso parlargli soltanto di fatti che conosce bene. Poi in dicembre arrivò Van Gelen, quel grande limburghese che avevo conosciuto a Münster, dove era giunto cercando una speranza per gli oppressi e trovando soltanto un vecchio dio impazzito mangiatore di uomini. La consegna di Bokelson era di cercare nuovi proseliti tra le comunità dei fratelli olandesi, ma la nuova Sion non lo avrebbe visto morire come un topo per realizzare le follie di un commediante. Non aveva alcuna intenzione di tornarci. E così ripresi a lottare. Non sapevo fare altro ormai. Combattevo ancora. Nel marzo del 35 eravamo a Bolsward, a espugnare il monastero di Old Cloister. Vi rimanemmo barricati per una settimana. Van Gelen pensava che da una posizione così strategica avremmo potuto dominare il golfo e intanto sollevare la Frisia, dove i contadini stavano già ribellandosi. Ma i contatti si rivelarono più difficili da mantenere del previsto. A maggio prendevamo il municipio di Amsterdam. Il piano di Van Gelen prevedeva che i popolani si sollevassero e si unissero a noi. Questo avrebbe dovuto essere compito mio. Lui, intanto, si sarebbe barricato dentro il palazzo municipale e avrebbe tenuto in scacco la guardia civica. Fu un disastro completo, l'ultimo atto. Nessuno ci seguì. Van Gelen si sbagliava. Gli umili non avevano alcuna intenzione di rischiare la vita per noi. Avevamo percorso troppa strada. C'eravamo spinti troppo avanti, senza accorgerci di quanto nel frattempo i tarli della paura e della miseria avessero scavato gli animi a fondo. Gli occupanti resistettero fino all'ultimo colpo e alla fine tentarono una sortita all'arma bianca. Li massacrarono tutti. Non potei fare niente. Van Gelen era morto. Avevo con me una trentina di uomini male armati e un vecchio barcone da pesca. In quella circostanza presi la decisione di sciogliere la brigata. Con un po' di fortuna qualcuno si sarebbe salvato. Restando uniti, saremmo stati presto individuati e catturati. Compresero. Nessuno fece domande. Quello fu l'ultimo ordine del capitano Gert dal Pozzo. Eloy cerca di sorridermi. Un altro nome? Nessun nome, nessun amico. I soldati battevano a tappeto la regione. Non c'era un posto sicuro. Ogni contadino poteva tradirti. Ogni viandante incontrato per strada poteva essere un cacciatore di taglie sulle tue tracce. Camminavo per giorni, dormivo nei fienili e lemosinavo da mangiare. Non avevo più notizie dei confratelli, non sapevo cosa stesse succedendo fuori dal posto preciso in cui mi trovavo. Anche l'orientamento cominciò a tradirmi. La mente si annebbiava. Sapevo soltanto di stare camminando verso nord. Avevo perso tutto. Münster, i miei uomini, Van Gelen, i confratelli che ad Amsterdam avevano creduto in me. Finito. Dopo 4 giorni di digiuno, le gambe cominciarono a non reggermi più. Vidi cose che mi preannunciavano la pazzia imminente. Ero morto, un fantasma. Tanto valeva sdraiarsi per terra e aspettare. Non avevo più un motivo per forzarmi ancora a sopravvivere. Mi trovarono lì nel fango, lacero, esanime. Potevo sperare nella coltellata di un brigante. Quasi rimpiansi di non avere addosso niente che valesse la pena rubare. Non mi fecero la grazia di quel colpo. Mi raccolsero e mi portarono con loro. Lascio che il sigaro si spenga sopra il camino. Il ricordo è confuso. Sembrano eventi vissuti in sogno. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'inferno. Eloy è serio, acquattato, un predatore notturno, sprofondato nella poltrona. Lo sento mormorare quel nome. Jan van Batenburg. Gli armati della spada. Una brigata cenciosa di reduci, quasi tutti fuoriusciti da Münster. I superstiti che si incolonnavano dietro l'ultimo cavaliere dell'Apocalisse rimasto in piedi. Il nostro tempo era finito, come aveva detto Jan Mattis. Potevamo soltanto credere che il mistero dell'iniquità si fosse disteso per terra, una testa dopo l'altra, un fratello dopo l'altro, per condurci infine a quella furia cieca. Non restava che votarsi alla morte del mondo e giurare fedeltà alla sua deflagrazione. Saremmo finiti così, con la spada in mano e le pezze al culo, ubriachi impavidi e grandiosi, finché c'era fiato per combattere. Non ci aspettavamo più niente. Eravamo già oltre l'Apocalisse, lontani da tutto, puri assassini. L'innocenza non poteva più esistere. Ai nostri occhi si trasformava in codardia, dannazione. Così sputavamo i brandelli delle nostre vite in faccia a chi rimaneva. Eloy è scomparso nell'ombra, in fondo alla poltrona. Sembra quasi di sentirlo rabbrividire. Non ho un ricordo nitido di quel periodo, non è possibile. Ho ucciso, torturato, annientato. Ho visto interi villaggi bruciare. Il terrore dei contadini che scappavano appena ci avvistavano all'orizzonte. Ho visto impalare frati come maiali allo spiedo. Ho visto lo spauracchio del cavaliere pallido galoppare sul margine delle colline e noi dietro, sull'orlo di quell'abisso, a tracciare il confine della santità. Dopo Mattis e Bockelson, il terzo Jan della mia vita, la terza maledizione. Quando alla fine l'hanno preso, ha riso in faccia alla tortura e alla morte. Ha lanciato ancora un grido di vittoria dal patibolo. Io l'ho sentito. Mi rilascio sulla poltrona, allungando le gambe intorpidite. E questo è davvero tutto, gloria e miseria. Ascolto il silenzio, sono stanco. La sua voce senza volto culla la spossatezza. È la storia più grandiosa che abbia mai ascoltato. E senza dubbio, tu sei la persona che stavo cercando. Stringo gli occhi, ma è soltanto una macchia più scura oltre lo scrittoio. Sono stanco, Eloy, troppo stanco. Sei vivo, è quello che conta. Sono stanco. Il corridoio che mi separa dal letto è lunghissimo. La luce fioca della candela lo illumina appena, mentre lo percorro a tentoni. Sono stanco, eppure sento che non riuscirei a prendere sonno. La voglia di sapere di Eloy ha risvegliato anche la mia. Münster cadde il 24 di giugno 1535. Gert dal Pozzo se n'era andato da 9 mesi. E tutti gli altri? Ai colpi sulla porta risponde una voce assonnata. Chi è? Sono Gert. La luce di una candela si aggiunge alla mia. Scruto il volto stropicciato di Balthasar Merck. Senza chiedere nulla, il vecchio Battista indica una sedia, accanto al letto. Siediti pure, ma dubito di poterti essere utile. Solo questo. Chi si è salvato? Posa la candela sul tavolino e siede al bordo del letto, massaggiandosi il viso. Quello che posso dirti è che noi eravamo 5. Krechting il giovane, il mugnaio Scraup, Schmidt l'armaiolo, l'incisore Kerbe e io. Tutti uomini di Krechting. Kerbe l'hanno preso a Nimega, poco dopo che ci siamo separati. Ho saputo che Schmidt e Scraup sono stati giustiziati a Deventer 2 anni fa. Krechting so che è ancora in giro. E c'è chi dice anche Rotman. Il suo corpo non era tra i cadaveri a Münster. Nessuno dei miei? Scuote la testa. Non ne ho idea. Alcuni di loro non erano nemmeno in città. Bokelson li aveva allontanati perché aveva una paura maledetta di te. Gräsbeck, i fratelli Brunt. Annuisce col capo. Loro sono tornati in tempo per assistere al delirio finale. Speravano di incontrarti, ma tu eri partito per non tornare più. Perché sono rimasti? Gräsbeck e Brunt hanno tentato di filarsela, ma i vescovili li hanno beccati appena fuori le mura. Brutta fine. Sospiro, spossato. Senza più la forza di immaginare. Le domande escono automatiche. Quale fronte ha ceduto? La Kruzthor e la Jüdfeldeltor, il punto più sguarnito delle mura. Qualcuno doveva aver informato i vescovili. Un manipolo si è infilato dentro durante la notte e all'alba ha aperto le porte al grosso dell'esercito. Il massacro è durato per giorni. Ho affidato mia moglie malata alle cure di una beghina, strappandole la promessa che non l'avrebbe denunciata, e sono scappato con gli altri. Sono 3 anni che non ho sue notizie. Rimaniamo in silenzio, ad ascoltare lo scrosciare remoto dei ricordi, ad assaporare questa solidarietà amara da reduci. Mi alzo, quasi pentito. Scusami. Capitano? Mi volto. I suoi occhi sono gonfi di stanchezza e di lacrime. Dimmi che quello per cui ci siamo battuti non era sbagliato. Serro la mascella, i pugni stretti. Non l'ho mai pensato, nemmeno per un momento.